E questa era 444 dei calibro 35 e, come annunciato pochissimi minuti fa, siamo in collegamento con il produttore della band, ovvero Tommaso Colliva, che saluto. Ciao Tommaso. Ciao. Ma grazie a te di essere qui insieme a noi su Radio Città Fucico. Come va? Come ti senti? Molto bene, sono in studio, quindi quando sono in studio mediamente sto bene. Ah, Quando sono fuori perfetto. dallo studio è più difficile. Perfetto, allora condividiamo la stessa cosa. Io quando sono in studio in radio mi sento bene, fuori dallo studio poi inizio a vacillare. Comunque, sei ospite ai nostri microfoni perché lo scorso 24 gennaio, quindi veramente pochissimi giorni fa, 6 giorni fa, è uscito il sesto lavoro in studio dei Calibro 35, Momentum. È un album, tra l'altro, che segna un po' un passaggio nella vostra carriera, nella carriera dei Calibro 35, che sono una band che esiste da una decina d'anni, da 10 anni circa. Volevo chiederti, innanzitutto, per presentare questo nuovo lavoro, come mai la scelta del titolo? Come mai Momentum? Quale significato ha? Allora, Momentum nasce prima di tutto da una costante di calibro degli ultimi tempi che cercando di farsi capire sia da un pubblico italico che da un pubblico che l'italiano non lo capisce, cerchiamo sempre di trovare titoli che abbiano un senso, una comprensibilità sia in italiano che in inglese. E nel corso degli anni abbiamo capito che ci piace trovare delle parole che hanno potenzialmente significato e comprensibilità in tutte e due le lingue, ma che hanno accezioni leggermente diverse. E il momentum, che poi sostanzialmente è il concetto di inerzia in inglese, era un po' quello che volevamo dire, ovvero confrontarci col presente, ma con un presente che ha una spinta verso il futuro, non con un presente che facciamo, non facciamo documentari, noi facciamo film. Momentum è il vostro sesto lavoro e in questi 10 anni di carriera segna un po' un'evoluzione. Qualcuno l'ha definita addirittura una sorta di spaccatura, insomma, la vostra fanbase si è quasi preoccupata, stanno cambiando genere musicale. In realtà no, c'è sempre lo stampo dei Calibro 35, però ci sono alcuni pezzi, come sentiremo poi più avanti, che quasi sfiorano le sonorità dell'hip hop, quindi c'è un'apertura anche ad altri generi. Quali sono quindi i cambiamenti? Le evoluzioni rispetto ai lavori precedenti. Ma sì, diciamo che infatti l'hai contestualizzato molto bene. L'idea non è quello: ah, oh mio Dio, ora cambiamo tutto. L'idea non è cambiare, è solo che dopo, che come normale nella vita delle persone, dopo un po' uno si evolve e ha anche un po' banalmente il bisogno di confrontarsi con cose nuove. Fare sempre le stesse cose e tecnicamente proprio ripetere lo stesso disco non era una cosa che ci interessava. Per cui, dopo un 13 anni di ricerca a trovare il nostro suono, ci siamo detti: perché non ci confrontiamo con un po' più con quello che proprio ci viene da fare ora, che vogliamo fare ora, al posto che parlare sempre al passato, imperfetto, remoto, participio passato o il passato comunque l'abbiamo declinato, cerchiamo di parlare invece in tempo presente. Non è detto che domani torniamo a fare qualcosa che parli al passato, ma volevamo appropriarci anche di questa possibilità. Certo, e all'interno dell'album ci sono alcune tracce che sono state realizzate in collaborazione con altri artisti e tra pochissimo ascolteremo un pezzo, Black Moon, che è in collaborazione con May, oppure Mi e Ai, non so se va pronunciata Mei, va May, bene. ok. E, per l'appunto volevo chiederti quali sono gli artisti che hanno collaborato con voi alla realizzazione di questo album e in particolare chi è quest'artista, poi sentiremo insomma la canzone. Allora, May è una rapper secondo me molto molto brava, inglese. Diciamo che proprio dalla spinta del ok, confrontiamoci con il presente per non stigmatizzarlo a caso senza conoscerlo, è venuta l'idea di dire: ah, wow, ma se facciamo una musica che è più basata sul beat, che è più basata sul groove, perché non farci rappare qualcuno sopra? E nel momento in cui ti viene questa idea, che è: ah, sì, wow. Poi però c'è il problema: ok, ma chi ci faccio rappare sopra? Chi è che considero che possa essere adatto a rappare sopra la mia musica? Perché poi scatta tutta una cosa di gelosia intrinseca. E da una parte il J

E questa era Black Moon dei Calibro 35 featuring May. Per chi si fosse sintonizzato solamente ora, siamo in collegamento con Tommaso Colliva, che è il produttore e fondatore originario dei Calibro 35. Abbiamo appena ascoltato questo pezzo, Black Moon, che è stato realizzato in collaborazione con May, che, come diceva prima Tommaso, è una rapper britannica, ma all'interno di Momentum, che è l'album, l'ultimo album per l'appunto dei Calibro 35, che è uscito lo scorso 24 gennaio per la Record Kicks, ci sono anche altre tracce realizzate in collaborazione con altri artisti. Quali sono questi artisti? Ce ne vuoi parlare brevemente? Ma oltre a Black Moon c'è Stanley, che è il pezzo che abbiamo, su cui ha rappato Illa J, ed è stato quello da cui un po' è partita l'idea. Stanley è il pezzo da cui è partita l'idea della potenzialità di avere dei rapper sul disco, perché abbiamo fatto questo pezzo che, se vai a vedere da un punto di vista musicale, è uno dei più classici, dei più simili a Calibro come li abbiamo conosciuti finora, e ci siamo detti ok, questo è un bel pezzo, lo vogliamo ottenere, però come lo contestualizziamo, facendo un qualcosa che comunque sia un po' nuovo con Calibro. Ed è venuto posso metterci degli altri strumenti, perché non chiamiamo un rapper a farci del rap sopra? Ed è stata un'idea che è venuta non so da dove e che ci ha lasciato tutti un po' spiazzati, e però abbiamo detto sì, ma perché no, proviamo. Eravamo alla fine del tour del disco precedente, e quindi era anche un periodo in cui avevamo proprio, credo, al di là della voglia, proprio sentivamo un po' di necessità, certo, di fare qualcosa di nuovo. Allora ho messo in piedi una piccola short list dei rapper che avrei visto bene su quel pezzo lì, e il J era uno dei primi. Avevamo un buon contatto, l'abbiamo investigato ed è successo tutto abbastanza in fretta e con ottimi risultati per quanto ci riguarda. Certo. Senti Tommaso, per quanto riguarda il tour, avete già delle date? Sì, il tour partirà la prossima settimana, sostanzialmente, perché partiamo il 7 febbraio da Brescia, e poi abbiamo Brescia, Parma, Bologna, Padova, Milano, Torino, Roma, Firenze, Cagliari, finalmente andiamo in Sardegna, Livorno, Foligno, Caserta, Genova, Cesena, insomma abbiamo un bel po' di date che ci sono su tutti i social, eccetera, ed è un tour in cui dopo un bel po' di anni torniamo solo in quartetto, perché il tour di Decade è stato fatto in parte in 10 musicisti e in parte con Beppe Scardini e Sebastiano De Gennaro. Invece per questo disco, una delle cose che sicuramente volevamo da questo disco era tornare a suonare in quartetto, e quindi dopo 3 anni torniamo a fare un tour in quartetto in Italia, mentre all'estero abbiamo sempre girato in 4. Ora torniamo in 4 anche in Italia, e ci sono un bel po' di sorprese, perché ovviamente il materiale nuovo necessita di una certa diversità anche dal vivo. Certo, assolutamente. Allora Tommaso, io ti ringrazio tantissimo per essere stato ai nostri microfoni, ai microfoni di Radio Città Fujiko, e ci diamo un successivo appuntamento magari in prossimità del 14 febbraio, che è la data del vostro concerto qui a Bologna al Locomotive. Assolutamente, sempre felici di tornare al Locomotive. Grazie mille a voi.